Qui a Pane, Burro e Rock and Roll, sono le 8:01. Inizio della seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Ai ai ai ai ai. La tua colazione roll. Ah, aia, Silvia è già entrata a scuola, mannaggia. Ogni giorno. Effettivamente cercare un bambino adesso è duro. Allora, cosa succede? Vabbè, ultima puntata del Buon Natale, speciale Buon Natale per Rock. Buona giornata dall'Ariele, la squadra, il completo di Pane, Burro e Rock and Roll. Stiamo facendo gli auguri con i fedeli. Mi manca sempre la parola, me la devo scrivere qua. Non mi viene, c'ho il vuoto totale. Vi ricordo che alle 9 apriremo le telefonate a tutti. 0267 09 132, come si è soliti fare qui a Rock FM per la puntata prima del Natale. Mentre per i nostri redazionisti da casa, tenteremo di ascoltarci oggi, ci è venuta l'idea che per dare una spruzzatina di vigilia di Natale, anche se anche se Natale è martedì, non ci sarebbe dispiaciuto una poesia, così, un bambino con una poesia. Se avete un figlio sotto mano, un nipotino, quant'altro, fatecelo sapere al 335 100 7777. Mentre vi ricordo che prima delle 9 conquisteremo Brugherio con la filo diffusione. Beh, se non sapete di cosa sto parlando, restate all'ascolto che lo scopriremo insieme. Intanto, Ticket to Ride. Yeah! To Ride, dai, lasciate, cioè, oggi puntata così a muzzo, via. Continuiamo a non trovare bambini per la poesia di Natale. In compenso continuiamo a salutare i nostri collaboratori. Ringrazio la redazione per per avermi segnalato la possibilità di chiamarvi collaboratori. Ringrazio chi via SMS provava, ci consigliava affezionati. Collaboratore 147, Andrea! È un Eccoli sacco qua. Che non ci sentiamo, buona giornata. Ciao a tutti, è uno sporco mestiere, ma qualcuno continuerà a farlo. Eccolo, vorrei dire. Qua. Lo abbiamo messo in stand-by per le due settimane natalizie. Sì. Andrea, che si occupava di studiare la concorrenza per farci vincere, la nicchia vincerà per battere i grandi network. E vinceremo. Tra l'altro, te lo dico così, su due piedi, continuo, prima in fuori onda, è venuta fuori un'idea niente male. Te la butto lì, veloce. Allora lui dice, visto che per battere gli altri, lui dice, ci mettiamo in concorrenza diretta con Isoradio. Okay. Funziona così, lui ascolta Isoradio, appena Isoradio danno i bollettini, ci chiama e ce li rivendiamo. Fantastico. Su Rock FM. Possiamo anche fargli ascoltare in diretta, volendo. Questo, caro Andrea, è già un filo più complicato, potrebbe essere più complicato. Però sembra un'ottima idea, insomma, vedi che... Da una cosa nasce cosa. Da cosa nasce cosa, esatto. Allora, hai ascoltato Rock FM in questi giorni? Non potevo non farlo, dai. Beh, meglio, perdonami. Dai. Infatti sono anche un po'... No, come un po' perdonami? Sono un po' più felice adesso. Tranquillo, ti sentiamo. Ricordiamo che il ragazzo si è fatto settimane intere ad ascoltarsi, che ne so, M2O. Radio Z, M2O, DJ. Adesso che puoi dirlo, qual è stata la più difficile di tutte? Ma quindi le più difficili alla fine sono state, ma forse DJ, piuttosto che anche quelle più piccole, Radio Mondo, perché poi le altre, quelle fortemente caratterizzate, erano anche divertenti. Ah, ok. Diciamo. Forse abbiamo una canzone, una bambina che ci canta una canzone. No, niente, aggiornavo in diretta quello che accadeva. Niente, dimmi. Sì, volevo dire una cosa. Sdoganiamo la concorrenza a tutti gli ascoltatori, direi, a questo punto, per l'anno prossimo, come eravamo. In che senso? È uno sporco mestiere, ma qualcuno continuerà a farlo. Ma lo facciamo fare agli altri, tu segnalazioni, dici? Io direi aprire a tutti gli ascoltatori, anche per sondare il locale in Toscana, Emilia, Liguria. Le radio locali, sì. Vedere cosa fanno loro per battere tutti quanti. Esatto. Può essere un'idea. Tu stai cercando di sviarti dal dover ascoltare altre radio a gennaio, ti ho capito. Ma perché a te. Un'altra idea. Ah, o la puoi dare così al volo? Ma io direi di sì. Vai, dalla, assolutamente. Io direi il rock è dappertutto, anche nel tuo ufficio. Sì? L'impiegato rock. L'impiegato rock. Esatto. Guarda che questa è una bomba, eh? Io l'ho lanciata, infatti. Ci si deve lavorare su. Cioè il rocker in giacca e cravatta. Esatto. Dove esatto. Si nasconde il rock nel tuo ufficio? Esattamente. L'hai buttata lì. L'hai buttata lì e potrebbe essere una bomba che esplode questa. Andrea, ci sentiamo quando ci rinnovano il contratto. Speriamo presto. Intanto saluti, insomma. Tanti auguri a tutti, allora. Ci sei mancato. Buon Natale però, Rock. Ciao. Ciao. Mo non ci frega, c'è il laserone sulla Lapponia, io il mio regalo ce l'ho, una bella motocicletta. Lei freak? Era anche il mio regalo. Allora io faccio una, Ferrari, lei fa un Harley. Un Harley. Colleghiamoci con la Lapponia. Dovrebbe Spadino. Esserci il collegamento. La parabola. Verso la centrale, esatto. Pane, burro, rock and roll, chiama Santa Claus. Santa Claus, risponda. Santa. Pronto? Natale, Natale, mamma mia, che nodo bale. Santa Claus, Babbo Natale, io voglio una Ferrari. Sì, con i regali, anch'io voglio. Io le dico così, subito, così. Babbo Natale, io vorrei una Harley Davidson. Sì, io una Ferrari 1002, e lui un Harley Davidson. Ha detto di sì, oggi l'ha sentito, ce lo porta, è andata, sì. Frick. Ragazzi, com'è? Che è una brutta notizia. Come una brutta notizia? Che è una brutta notizia, ma... ma licenziato. Ma come l'ha licenziato? A pochissimo dal Natale. Guarda, protesti, strada dei sindacati. È una roba brutta, è una roba brutta. Lei non è più Babbo Natale. No. No. Adesso su chi che raccoglie i miei distracci. No. No, si unisca agli elfi. No. Fate una proposta di protesta collettiva. Secondo me, maestro, ha messo il dito nella piaga. C'è puzza dei nani qui. Allora, il problema è stato che i nani lo sapevo che mi facevano lo scherzo. Cosa è successo? Siamo andati a fare le prime. Siamo andati dietro a fare le prime consegne. Allora andiamo da Ozzy Osbourne a portare la solita confezione da 12 kg di carne di pipistrello. È andata bene. Stronzate. Il problema è quando state da Lemmy. Lemmy mi ha tirato fuori. Lemmy dei Motorhead. Allora tira fuori il whisky. Il whisky, il gira, il gin tonic. Roba da bere, Lo stravecchio. La stravecchia. Aveva anche lo stravecchio. Insomma, ci abbiamo bevuto tanto su tutto. Torna qua con la sai nani da Lemmy. Lasciate i nani da Lemmy. Sei, uno ce l'ha ancora. Sono dismenticato. No, l'altro è comunità. Non me la è caccolo. Sempre caccolo. È il cuore comunità. Porca miseria, ma come si ci sarà un modo per rimediare? Faccia appello al buon cuore del principale. Sì, quelli. Ma noi chi ce la porta l'Harley e la Ferrari? Cioè, dovete chiedere all'altra, l'altra ditta. Il Gesù bambino. Ho capito, ma noi non abbiamo il laserone su Betlemme. Mi ha spiato. Ce l'abbiamo solo sulla Lapponia. Proprio senta, ma il suo principale, ma non può far niente, ma chi è? È in alto, è proprio in alto, in alto. Ma è lo stesso dell'altra ditta, il principale? Diciamo che è una holding che gestisce le tre cose. Anche la Befana fondamentalmente è sempre... Che è sua moglie, no? Non è la mia moglie, Befana. No, faccia arrabbiare perché è già un brutto. No, scusa, io... Vabbè, quindi se lei... Gesù bambino... No, non sono io da giovane. Questo l'avevamo già ricordato. È vero, ma è bene ripetere. Senta, comunque, perché... se lei non è più Babbo Natale, niente, salutiamo. Mi dispiace, solidarietà. Come... Ora l'indirizzo dell'altro nuovo? Adesso lo so. Oh ragazzi, non è che per caso lì dalle vostre parti c'è un posticino per sistemarmi? No, ma sì, ma si trova. No. Lei sa fare il tecnico del suono? Sì, tranquille, dai, se si parla. Sposto la parabola. Oh ragazzi, non vi sento più. No, volevo chiedervi se per gentilmente potevate fare. Ragazzi, non vi sento, parlate. È caduto il collegamento. Cioè, una volta che ho bisogno di una roba io. Vai anch'io, che c'è? To me. Joe Cocker. You are so beautiful. Questa è Rock FM, la colazione di pane, burro e rock and roll, che chiude i battenti stamattina e poi vi lascia alle feste natalizie, ai bagordi e quant'altro. Abbiamo lanciato l'appello, qui ormai siamo abituati ad avere dei radioascoltatori che prontamente rispondono ai nostri appelli. Pensavamo, visto che ci ha dato il benestare anche Tino il tassista, che solitamente odia il Natale, abbiamo deciso che rintracciare qualche piccolo bambino o qualche piccola bambina che ci cantasse una canzoncina natalizia o ci raccontasse la sua poesia avrebbe fatto la sua porca figura in questa sorta di vigilia natalizia. Ringraziamo Filippo. Ciao Filippo. Ciao Ariele, buongiorno. Benvenuto a Rock FM, tutto bene? Grazie mille, tutto bene, tutto bene. Filippo ha una bambina. Esatto, si chiama Vittoria. Sì. E da quando, adesso ha 4 anni, da quando ha 3 anni che continua a dire facciamo che tu sei rock e io sono FM. Ah, ho capito. È lei. Ah, ho capito. Tutto bene? Tutto benone, grazie. Lei è qui pronta a cantare. Che cosa ha preparato per Natale? Una canzoncina che le hanno appunto adesso fatto fare all'asilo, le è piaciuta molto e ci teneva moltissimo a cantarla a tutti voi. L'importante è che le piaccia, perché non mi piacciono quei bambini sforzati che ti mettono sulla sedia. No, con la pistola puntata, assolutamente. Ciao, passami un po' Vittoria, vediamo un po'. Eccola. Pronto Vittoria? Ciao. Ciao, facciamo che io sono rock e tu sei FM? Sì. Non suggerire Filippo che ti ho sentito. Come stai? Bene. Tutto bene, hai scritto la letterina a Babbo Natale? Sì. Che cosa abbiamo chiesto di bello? Il computer delle Wings. Il? Computer delle Wings. Il computer delle Wings. Esiste un computer delle Wings? Le pantofole delle Wings. Che cos'altro delle Wings? Le pantofole. Scusami, Vittoria, mi devi perdonare, ma io non sto messo molto bene. Quindi le pantofole e il computer delle Wings. Altro? Sì. Cosa? Sbrodolina ballerina, la stazione dei pompieri e un videogioco. Quale videogioco? A caso? Ha suggerito, il papà ha suggerito, ho sentito. Dei micini. Dei micini, ho capito. Ma e questa cosa dei pompieri non l'ho mica capita. La stazione dei pompieri vuoi? Sì, di Topolino. Ah, di Topolino, ho capito. Senti, papà ti ha portato a vedere il film delle Wings? No. Non ancora? Ancora no, non è stato. Bisogna sgridarlo. Ma gliel'hai chiesto tu? Sì. Volevo vederlo. Ma guarda un po' te. Passaci papà un attimo. Pronto, papà? Mia culpa. Devi portarla a vedere il film delle Wings, tu hai capito? Accidenti, mi tocca anche. Promettilo ufficialmente. Oltre al DVD che gira sempre per casa, ci sarà anche il film, ben preso, lo prometto. Va bene, ripassami Vittoria che vediamo se ci canta la canzone. Vediamo, non suggerisco, giuro. Mi raccomando. Vittoria, allora, in diretta sulle frequenze di Rock FM, dacci un po' di spirito natalizio, che canzone è? L'hai imparata la zia? È Natale. È Natale, si chiama. Va bene, se te la senti cantala pure. Buon Natale, ma che sia quello buono, che ci porti un sorriso e la gioia di un dono. Sotto l'albero stanco di frutta e di mele, è Natale più bianco, serene la neve. E se brilla una stella cometa lassù, per tanto ci fossi anche tu. Buon Natale, ma che canterò una canzone. Buon Natale, cosa tutto bellone. E c'è un dolce sorriso, puoi fare anche tu. È Natale se canti anche tu. Evviva! Senti gli applausi, Vittoria. Che brava, mannaggia. Li sente. Mannaggia. È Natale. L'ho già imparata io. E ti è andata? Ah, è andata anche bene, questa è la versione breve, c'è anche quella più lunga. Ti è andata bene oggi. Va bene, grazie mille. Grazie a voi tutti, un abbraccio a tutti. Ci sentiamo presto, un bacione a Vittoria. Grazie, ciao. Che ci volete fare? Solo noi abbiamo dei radioascoltatori così. si chiama Lenny Kravitz, tra pochissimi istanti, appuntamento con il test attitudinale, sì, anche oggi! Certo, è sempre un'emozione. Che cosa? Arrivare passin passetto al Sancta Sanctorum, al cuore del programma Pane, Burro e Rock and Roll. Lei sta parlando del test attitudinale. Come affrontare una giornata senza test attitudinale, veramente. Anche perché il test attitudinale ci accresce. Dice, è vero, la nostra cultura, e ci dice se siamo davvero informati sul nel riguardo al mondo del rock. Andiamo con una domanda abbastanza semplice quest'oggi, riguardante il primo disco pubblicato dalla celebre coppia John Lennon e Yoko Ono. Se lo ricorda? Naturalmente sì, ma attenzione, perché anche le domande più semplici nascondono trabocchetti. Il disco si chiamava Two Virgins e fece parecchio scalpore. Ricordate il perché? Ipotesi A: la copertina dell'album in questione, Two Virgins, le due vergini, sì, era una fotografia che ritraeva i due artisti completamente nudi, abbracciati l'uno all'altra. Oppure, ipotesi B: perché l'album conteneva una versione inedita di Yellow Submarine dei Beatles, pubblicata nell'album senza alcun tipo di permesso da parte degli altri componenti della band. Oppure, ipotesi C: parecchio scalpore venne dal fatto che Nel disco Two Virgins almeno un paio di tracce facevano esplicito riferimento all'uso di stupefacenti. Vennero così quindi censurate con l'accusa di inneggiamento all'uso di sostanze stupefacenti. Ricordatelo adesso perché Two Virgins fece scalpore. La risposta giusta comunque ve la diamo tra poco. L'esatta soluzione a poco dopo.